Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Sarà capitato a tutti di sentir parlare delle grandi talpe meccaniche grazie alle quali negli ultimi anni sono state scavate gallerie e trafori. Sono nate per rendere più rapidi e sicuri i lavori di scavo dei tunnel e le più grandi hanno teste con un diametro di oltre 10 metri, quanto serve per consentire al tunnel di ospitare una strada a due corsie, insomma. D'altronde la necessità di scavare buchi sottoterra va ben oltre il caso delle gallerie stradali. Basta pensare alle reti di tubazioni che trasportano acqua, gas, fognature e cavi elettrici di vario tipo e che formano un intrico nel sottosuolo di qualunque città o centro abitato. In questi casi tipicamente i lavori di scavo e le operazioni di manutenzione creano parecchio disagio, distruggono strade appena asfaltate, anzi questo è abbastanza tipico, bloccano il traffico. Inoltre i costi di queste operazioni, sia in termini economici che energetici, sono elevatissimi. Per evitare tutto ciò, negli ultimi anni si sono sviluppati una serie di tecnologie che vanno sotto il nome di trenchless, ovvero senza tagliare, letteralmente. Ci facciamo spiegare tutto da Alessandro Olcese, vicepresidente dell'Italian Association for Trenchless Technology. Buonasera Olcese. Buonasera, buonasera a lei. Dunque Olcese, allora ci aiuti a fare un quadro. Io ho accennato alle talpe, lei ci spiegherà meglio, ma le tecnologie trenchless sono un pool di tecnologie. Sì, esatto, le tecnologie trenchless sono le tecnologie che cercano di risolvere problemi di posa e gestione di servizi interrati col limitato uso di scavi, quindi con limitato impatto ambientale. Di scavi di superficie soprattutto, insomma. Scavi di superficie, esatto. Queste tecnologie vanno dalla posa tramite ad esempio micro tunneling o directional drilling, ovvero? Oppure vanno da tecniche di relining, che vale dire sono le tecniche che utilizzano le strutture, le infrastrutture già presenti nel sottosuolo per introdurre nuove tubazioni all'interno delle stesse, vale dire ricoprono con calze o altro l'interno delle tubazioni vecchie esistenti e le rinnovano. Ecco, invece quando parliamo di micro tunneling o directional drilling parliamo di una di queste talpe, diciamo. Esatto, per il micro tunneling parliamo di scudi cosiddetti fresanti, seguiti da conci in calcestruzzo, in acciaio o in gres, che man mano che lo scudo avanza rivestono il microtunnel e che viene poi utilizzato direttamente come ad esempio una fognatura oppure viene utilizzato come cavo in cui posare come i sede. Nuovi servizi. Certo, ecco, e le dimensioni di questi buchi, diciamo, sono molto variabili. Abbiamo parlato delle grandi talpe che fanno questi trafori da 10 metri, qui invece si scende molto di dimensioni, anzi si è partiti dal grande e si è arrivati al piccolo. Esatto, si parte dai 40 centimetri fino ai 3 metri e mezzo, massimo 4 metri. Ecco, ci faccia qualche esempio, diciamo che intanto quanto meno si scava, quanta terra in meno si deve asportare se si ricorre a queste tecnologie trenchless e se ci sono insomma dei casi interessanti. Immagino che anche in situazioni in cui l'ambiente è molto delicato queste tecnologie possano essere una buona risposta. Beh, per quanto riguarda il risparmio sullo scavo c'è un esempio eclatante, l'attraversamento del fiume Po per un metanodotto di importazione dalla Russia eseguito da Snam 8-9 anni fa. Per questo attraversamento si è calcolato che a fronte di una movimentazione di terre pari a 10.000 metri cubi di terreno, se si fosse usato il metodo tradizionale di scavo a cielo aperto, i metri cubi di terreno mobilizzati sarebbero stati 500.000, quindi un risparmio notevolissimo. Quindi 50 volte di più, insomma. 50 volte di più. 500.000 metri cubi sono mezzo chilometro cubo di terra, insomma, esatto. Una collina praticamente. Senza contare che questo metodo permette anche di attraversare delle zone anche cittadine senza intaccare i servizi di superficie, quindi lasciando che il traffico circoli, come si è fatto a Genova ad esempio, per il trasporto del porto petroli fino al deposito costiere dell'Eni. Insomma, si risparmiano energia ed energie nervose, per così dire, quelle dei cittadini che non si arrabbiano perché non esatto. Si trovano la strada bloccata. Senta, un altro problema tipico riguarda invece la manutenzione, cioè una volta che queste strutture sono già state posizionate, indipendentemente dal modo in cui è stato fatto, capita ovviamente che ci siano rotture, che ci sia bisogno di intervenire. Ecco, ci sono delle tecnologie trenchless che servono invece a individuare, per esempio, queste rotture senza bisogno di buttare tutto all'aria? Allora, per la prevenzione per esempio sulle colotte in acciaio, si usano tecniche di ispezione tramite i cosiddetti pig intelligenti, maiali intelligenti, sono scovoli che entrano all'interno della tubazione, scorrono spinti dal fluido che scorre nella tubazione e registrano punto per punto con molta precisione le possibili anomalie meccaniche della tubazione, quindi permettono un intervento preventivo. Ci sono degli interventi poi da fare invece in caso di rottura per individuare la zona delle perdite, per esempio di acquedotto, tramite metodi tipo il georadar ad esempio, che individua le zone in cui c'è scarsa risposta ai raggi per via della presenza d'acqua, ad esempio. Quindi sono onde elettromagnetiche che penetrano nel suolo, ma quando incontrano acqua non penetrano più. E quindi lì si capisce che c'è una perdita d'acqua, per esempio. Sì. Bene, bene. Senta, mi pare che queste tecniche d'Italia siano poco utilizzate. Diciamo che gli enti pubblici sono ancora molto indietro nell'utilizzo di queste tecniche, perché per molti motivi legati anche all'abitudine, tra virgolette. E poi perché nel budget iniziale di un'opera viene visto sempre soltanto il costo di per sé dell'opera, non le ricadute dei costi cosiddetti sociali. Detto così però sembra che costi molto di più fare ricorso a queste tecnologie. No, infatti non è. Il costo di queste tecnologie è diminuito notevolmente, perché allargando il mercato, migliorando la tecnologia, il costo diminuisce. Questo quindi siamo più o meno su cifre analoghe le due vie, diciamo? No, attualmente per esempio fare un attraversamento di un corso d'acqua tramite tecnologia trenchless, centrale, il directional drilling, costa molto meno. Costa molto meno. Ecco. Grazie al Cese. Arrivederci, buonasera. Grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento con Mr. Kilowatt è per lunedì, parleremo di fotovoltaico a film sottile oppure di seconda generazione, come preferite. Buon fine settimana!